voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Je dors au bord de mon lit, ah, ah, comme je regrette. questo libro è veramente molto voluminoso, sto facendo fatica a riuscire a tenerlo in mano. Scusatemi, avrei dovuto cominciare con l'incipit, ma questa mi è uscita spontanea, vediamo se ce la faccio. Siedo in un ufficio, circondato da teste e corpi. La mia postura segue consciamente la forma della sedia. Sono in una stanza fredda nel reparto amministrazione dell'università. Dei Remington sono appesi alle pareti rivestite di legno. I doppi vetri ci proteggono dal caldo novembrino e ci isolano dai rumori amministrativi che vengono dall'area reception, dove poco fa siamo stati accolti lo zio Charles, il signor DeLint e io. Sono qui dentro. All'altro lato di un grande tavolo in legno di pino che splende della luce del mezzogiorno dell'Arizona, tre facce sono materializzate sopra giubbotti sportivi leggeri e Windsor a mezze maniche. Sono tre decani, a missione, affari accademici e affari atletici. Non so attribuire le facce. Credo di sembrare un tipo normale, forse perfino simpatico, anche se mi hanno consigliato di apparire il più normale possibile, di non provare nemmeno a fare quella che a me parrebbe un'espressione simpatica o un sorriso. Questo era il lungo incipit di un lungo libro. Infinite Jest di David Foster Wallace. Thank you. They say it fades if you let it. Veramente tante cose da dirvi, sì, perché vi ho fatto ascoltare musica, l'ho intercalata con incipiti letterari, con spezzoni cinematografici, ma ancora non mi sono fermato a raccontarvi che cosa vi siete ascoltati. È vero che eclettica è soprattutto un'atmosfera e poi ci sono le playlist per recuperare i nomi, però è sempre meglio anche dare qualche minima indicazione in onda. Siamo partiti con la Francia, il duo francese degli Holden con l'H iniziale, loro dicono di fare indie pop e quindi dovrebbe essere questo il suono che vi siete ascoltati in apertura della quarta parte di Eclettica. Poi una band pugliese, sapete che non mi faccio problemi a recuperare come nuove cose che magari invece sono datate di qualche mese, semplicemente per distrazione io non sono riuscito a cogliere nei tempi giusti. La band pugliese dei Muzak rientra in questo caso, hanno fatto secondo me veramente un bel disco con l'aiuto di Andrea Magistrali e io ho intenzione di farvelo ascoltare più di una volta all'interno di Eclettica, per esempio quest'oggi da questo In Case of Loss Please Return To. ho estratto la traccia numero 6 che si chiama Oxygen, Opiates and Other Pale Ideas. Tutto questo per i Muzak, proprio così come la vecchia storica rivista o anche il vecchio storico programma radiofonico. E poi ci siamo ascoltati un qualcosa che in molti fra voi dovrebbero aver riconosciuto, in quanto era un ritorno, l'ennesimo passaggio di I Can Wait, quello che io ho eletto, mi sono preso così questo ruolo di selezionatore di singoli, ho eletto a singolo da Separate Chambers, dalla band berlinese dei Contriva. Invece, per parlare di quello che vi ascolterete, ci spostiamo dalle parti di Firenze, da cui provengono i Muriel, band che incide per Yato Music e in questo mese di gennaio pubblica un album dal titolo Il Movimento Necessario. Ho detto area di Firenze, secondo voi chi potrebbe essere il produttore artistico? Vi lascio 3 secondi. 1, 2, 3. Giusto, Paolo Benvenu. L'avete indovinato quasi tutti. La traccia che ci ascoltiamo delle 11 presenti è la numero 3, Stagioni. Right now. antichrist. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy the passerby, 'cause I wanna be anarchy. No dogs, buddy. Coming sometime, and maybe I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be anarchy in the city. I wanna be anarchy. Era da un po' di tempo che non ci riascoltavamo gli Yellow Capra qua all'interno di Ecletica, e quest'oggi hanno avuto l'onore con Traffic di chiudere la trasmissione, ma anche la settimana dell'intera Ecletica. Band milanese Yellow Capra, che è uscita con questo disco per P-Loft qualche mese fa. Cosa mi rimane da dirvi? Alla prossima!